vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 giugno, il sole in regione è sorto alle 5.17 e tramonterà alle 21.03. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Daniele Lettige e Armando Mucchino. I titoli. La scuola di montagna a Barcis, un progetto dell'Università di Udine per fidelizzare i giovani. I ragazzi e la vita in campagna d'estate, ricordi per chi ha vissuto quei momenti lenti che hanno però lasciato memoria. È facile dire ciliegie, ma conoscete varietà e varianti? Oggi un piccolo prontuario lessicale. Le birre a bassa fermentazione, le più diffuse al mondo, nella rubrica dei sommelier. C'è un modo semplice, con l'utilizzo del sale, per conservare a lungo i profumi e i sapori delle erbe aromatiche. Nella rubrica dei fiori, la Pentas lanceolata, meglio conosciuta come stella egiziana, pianta prediletta dalle farfalle. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Barcis sta ospitando in questi giorni la seconda edizione, il secondo modulo della Scuola della Montagna nel cuore delle Dolomiti friulane. La coordina questa scuola il professor Mauro Pascolini, delegato del rettore dell'Università di Udine al Cantiere Friuli. Partiamo dal Cantiere Friuli allora. Cantiere Friuli è un progetto voluto dal precedente rettore, continuato con il rettore di oggi, che intende restituire in termini di competenze, di progetti legati al territorio, quello che i friulani più di quasi 45 anni fa hanno fatto dopo il terremoto, cioè raccogliere le firme per avere l'Università del Friuli. Scuola di montagna, scuola di agricoltura, ma non solo agricoltura ovviamente. Sì, una delle attività più importanti all'interno di Cantiere Friuli è proprio l'attenzione per la montagna, e la grande novità di questa azione è proprio quello della formazione, cioè attraverso la formazione, attraverso una scuola, si vuole formare giovani per restare a vivere e lavorare in montagna, partendo dalle risorse della montagna e quindi da quelle tradizionali che possiamo far risalire al modello agrosilvopastorale. Da qui un focus particolare sulla pastorizia. Sì, la pastorizia sta avendo in questo momento, diciamo, un periodo di cambiamento, anche qui in Friuli. Al tradizionale al peggio, si sta consolidando una transumanza e un allevamento soprattutto di ovini, con la presenza anche di pastori e di pastore, soprattutto stanziali, soprattutto nell'area del Pordenonese. Ovviamente tutto dedicato e rivolto ai giovani. Sì, perché il futuro è dei giovani, però dedicato anche a chi è già inserito nel mondo del lavoro o chi intende venire a essere un nuovo abitante della montagna con le proprie competenze. E chi sta frequentando, chi ha scelto questa scuola? L'hanno scelta, diciamo, fondamentalmente neodiplomati, studenti universitari della montagna in primis, e poi studenti delle altre montagne qui vicine, Veneto, Comelico, e studenti in generale anche della pianura. Però è interessante che ci sono alcune persone che vengono da fuori, Lombardia, Toscana, Emilia, magari di età già formata, che intendono intraprendere una nuova attività nel mondo dell'agricoltura e dell'allevamento proprio in area montana. Prossime edizioni? Prossime edizioni la prossima settimana, a settembre, e poi il prossimo anno, in cui si riprenderanno i moduli di agricoltura allevamento, però legati anche al turismo e al benessere della vita in montagna. Vorrei ricordare che grazie al finanziamento della strategia nazionale delle aree interne declinata dal gruppo di azione locale Montagna Leader, tutto il soggiorno e le attività sono gratuite. I ragazzi e la vita in campagna d'estate, memoria di un piccolo mondo antico nella storia di oggi di Angelo Floramo. Ricordo che come prima cosa si toglievano i sandali, quelli blu, con i due buchi sul davanti. era il primo indizio di una libertà capace di regalare leggerezza e stupore. L'estate era un tempo che si dilatava all'infinito, sospeso, dedicato all'avventura e fuori dal controllo degli adulti, o quasi. Se poi si faceva tana nella vecchia casa colonica dove vivevano i nonni, allora tutto acquisiva il sapore della magia. La sveglia te la dava il sole, che i vecchi scuri di legno non riuscivano a tenere fuori dalla camera. Quella che un tempo apparteneva al Barbe, lo zio, partito ancora giovane per fare l'operaio in fabbrica a Torino. La prima sorpresa era quella di non avere il bagno a disposizione. Proprio non c'era. O si usava il vaso da notte, il piter, tenuto sotto il letto alla bisogna, cercando di prendere bene la mira, oppure si andava nel cesso, un gabbiotto di legno tirato su alla buona e prospiciente al letamaio. Si capiva subito che in campagna non ci sono rifiuti o scarti. Tutto torna utile, secondo l'antico principio a fondamento di un mondo capace di reggersi da sé, perfettamente autosufficiente, in grado di dare un senso perfino alla cacca e alla pipì. La colazione era sana e abbondante, mica le merendine di plastica dentro una confezione che aveva il loro stesso sapore. Il latte era profumato, denso, quasi giallo, riscaldato dentro un bricco sullo spolert che ardeva, anche se fuori il sole arroventava le pietre, e riempiva una tazza larga, bianca, capiente, senza manico, per cui ci si scottava sempre le dita. Dentro si sbriciolava il pane vecchio, da tirare su con il cucchiaio della minestra. La vecchia armeggiava sul lavandino di pietra. Aveva sempre qualcosa da fare. Lavava il radicchio preso nell'orto prima che il sole fosse alto, perché così sapeva di rugiada, diceva. I sapori no. Basilico e prezzemolo dovevano ottenere, sosteneva lei, il profumo della terra, altrimenti non erano buoni. Se era giornata di festa, allora la cucina era piena di penne e di piume, indizio di un reato commesso da poco, e promessa di un pranzo d'altri tempi, con piatti che si riempivano di un sugo denso e giallo, il tokio, da tirare su con la polenta. Poi via, insieme agli altri vagabondi che condividevano la stessa ineguagliabile spensieratezza. Sento ancora sotto la lingua il sapore acidulo del pane vin, raccolto a bordo campo e gustato sotto una frasca o tra i rami di un gelso. Dall'assù il mondo sembrava ancora una bella cosa, e noi i suoi unici abitanti, selvatici e felici. Tanti nomi, tante le varietà e tante le varianti, anche lessicali, nel mondo delle ciliegie. Le ha esplorate per noi il professor Raffaele Testolin. Parlando di ciliegie, con gli amici mi sono reso conto che c'è un po' di confusione nei nomi e allora ecco un piccolo dizionario senza pretese. Il ciliegio comprende due tipi di piante, il ciliegio dolce e il ciliegio acido. Ciliegie dolci, ciliegie in friulano, sono quelle che troviamo abitualmente in negozio per il consumo fresco. Il ciliegio acido, svuisui, un nome, un programma, produce invece ciliegie dal gusto piuttosto acido e astringente. Chi le ama le consuma perché dissetano, ma è difficile trovarle in negozio. Il ciliegio acido comprende a sua volta due tipi di frutto, le amarene, marene in friulano, e le marasche, marasche in friulano o marinele. Le amarene hanno buccia di colore chiaro e succo limpido. Le marasche hanno buccia molto scura, succo scuro, più amaro che acido. Ci sarebbero poi le visciole o visciole, una amarena un po' più scura che pochi conoscono a parte i marchigiani, tant'è che in alcuni paesi del mondo non c'è un nome corrispondente. Se non fosse che i marchigiani rischiano di offendersi, mi verrebbe da dire che se la sono inventata. Tornando alle ciliegie dolci, ecco qualche altra informazione. All'inizio della stagione troviamo in negozio le cosiddette tenerine, ciliegie dolci con polpa poco soda, nemmeno tanto buone, ma il desiderio di assaggiare le prime della stagione ci invoglia ad acquistarle, anche a caro prezzo, e poi restiamo delusi. Più tardi arrivano i duroni, le ciliegie migliori con polpa soda, spesso grosse e belle. I duroni durano a lungo e possiamo trovarli per un paio di mesi e anche oltre sul mercato. Ovviamente parlo di prodotto italiano perché In realtà, da alcuni anni, le ciliegie arrivano sul mercato 12 mesi all'anno, spediti dalle più diverse parti del mondo, ma il prodotto importato pesa sulla bilancia dei pagamenti e quindi un po' di autarchia non farebbe male. E poi, vuoi mettere la gioia di attendere come da bambini la stagione delle ciliegie? Nove consumatori su 10 nel mondo bevono birre a bassa fermentazione. Di cosa si tratta? Ce lo spiega oggi Vladimiro Tulisso per la rubrica dei sommelier. Anche il mondo della birra ha il suo prodotto leader. Il 90% del consumo mondiale è affidato a prodotti a bassa fermentazione. Si tratta delle birre nelle quali, durante la trasformazione degli zuccheri, i lieviti creano nei tini una quantità di anidride carbonica insufficiente a spingerli verso l'alto. Rimanendo sul fondo dei contenitori di fermentazione, facilitano però il filtraggio naturale del mosto, rendendo più facile ottenere una birra pulita. La patria di origine delle birre a bassa fermentazione è la Baviera, dove la produzione è iniziata intorno al 1500 e dove le lager, così si chiama questa grande famiglia di birre, sono rimaste confinate fino alla seconda parte del 1800, quando hanno iniziato a invadere il pianeta. La famiglia Lager comprende un'elevata quantità di stili con variazioni di colore e gusto, garantendo prodotti che la maggior parte dei consumatori trova gradevoli e poco impegnativi. Le basse temperature a cui lavorano i lieviti, infatti, riducono il gusto legato alla fermentazione, limitando così i sapori che derivano dalla trasformazione degli zuccheri e che sono spesso sentori che ricordano la frutta e le spezie. Il gusto è pertanto dominato dagli ingredienti base della birra e in particolare dal malto e dal luppolo. Le lager sono birre chiare, limpide, tra le più popolari alla spina sui banconi dei pub e dei bar. Spesso di color oro, dal gusto leggero e beverine, hanno una quantità di alcol che raramente supera il 5%. L'equilibrio gustativo può variare di molto in conseguenza delle qualità organolettiche dei prodotti base che ricordavo prima. Quindi potremmo incontrare birre super luppolate o altre con un significativo impatto di malto, con le note di biscotto o crosta di pane. Al pari delle lager sono a bassa fermentazione anche le pils, birre di origine ceca. In questo stile è il luppolo della varietà Saaz a dominare le sensazioni organolettiche. Bere lager, come fanno 9 persone su 10 nel mondo, significa quindi anche divertirsi a cercare le differenze di gusto, a cercare la zona di origine o a riconoscere la varietà del luppolo. Un modo per dare alla bevuta anche un significato culturale. Le erbe aromatiche, il solstizio d'estate e come conservare tutta questa bontà e magia in un vasetto. Ve lo racconta Michela Urbano. Le erbe, assieme al fuoco e all'acqua, sono le protagoniste indiscusse nei giorni compresi tra il solstizio d'estate e San Giovanni Battista, cariche di forti significati simbolici e rituali. In primavera, andar per erbe significa andare a raccogliere nei prati verdure selvatiche per farcire ravioli, chercions, frittate e minestre. In estate, invece, la raccolta è dedicata essenzialmente alle erbe curative, intrise di oli essenziali, panacee di molti malanni e indispensabili in cucina. Sebbene il periodo balsamico delle varie specie officinali sia condizionato dal clima, dal territorio e dalle caratteristiche della pianta, possiamo dire che ad uso culinario il periodo ottimale per la raccolta sia l'inizio dell'estate, in particolare quest'arco temporale compreso tra il 21 e il 23 luglio, entro il quale il sole ha la sua massima espressione e la natura è nel suo massimo splendore. Andar per erbe è sicuramente una faccenda da donne, dove l'antico sapere, intriso di un senso primordiale del sacro, rivive in misteriosi antichi rituali dal significato simbolico e talvolta esoterico. In questa notte magica sono le donne a raccogliere in mazzetti le erbe tradizionali per confezionare il macio di San Juan a protezione della casa nei mesi a venire. Altre donne un tempo hanno tessuto su fili di rugiada saperi e misteri tanto da essere talvolta additate e perseguitate come streghe o fattucchiere. Storia di donne raccoglitrici, testimonianza di una società rurale con un grande rispetto e cura verso la natura e l'ambiente. Donne come Angela e Elvira che mi hanno accolto all'orto botanico Polse di Cugnes a Zuglio, dove oggi si rinnova il rito del Mace di San Juan. E se vi dicessi che la magia di questo giorno la possiamo chiudere in un piccolo vasetto e usare al bisogno per insaporire i mesi a venire, mi credereste? Ebbene, procuratevi un vasetto ben pulito e asciutto e 250 g di sale grosso integrale. Raccogliete 80 g di erbe aromatiche a voi più gradite, assicurandovi che siano sane e prive di trattamenti chimici. Con le mani staccate le foglie dai rametti e dalle parti più legnose. Pulitele delicatamente con un panno umido e lasciatele asciugare all'aria. Mettete il sale e le erbe in un tritatutto potente e attivate la magia. Ben tappato e conservato in un luogo fresco, il sale aromatico diventerà un prezioso alleato in cucina per i mesi a venire. Oggi Alessandro Squizzato per la rubrica dei fiori propone una scheda sulla Pentas lanceolata, meglio conosciuta come stella egiziana. La Pentas lanceolata fa parte della famiglia delle rubiacee. È una pianta da fiore proveniente dall'Africa, soprattutto dalle zone meridionali. È conosciuta anche con il nome di stella egiziana o fior di stelle, per via della forma, appunto, a stella dei suoi fiori. Questi si presentano raggruppati ad ombrello, con colori molto variopinti e vivaci, come il rosso, il rosa, il viola, il bianco, il lilla, il magenta, per non parlare poi di tutte le varietà bicolori, che sbocciano dalla primavera sino all'autunno. Le foglie sono lanceolate, di colore verde scuro, molto fitte e ruvide, in quanto presenta una leggera peluria. La pianta si sviluppa come un piccolo cespuglio ben ramificato, che può raggiungere i 50 cm di altezza. Nelle regioni in cui è originaria riesce a vivere in modo perenne. Nelle nostre latitudini, invece, viene coltivata ed allevata come pianta annuale, poiché non resiste a temperature inferiori ai 10 gradi. Viene apprezzata ed utilizzata per abbellire balconi, terrazze o aiuole e, vista la moltitudine di colori, possiamo sbizzarrirci al meglio per creare veri e propri angoli davvero colorati. La sua ideale esposizione è il pieno sole, ma si adatta anche alla mezz'ombra, nonostante ciò comporti una minore fioritura. Il substrato ideale per il loro allevamento deve essere fresco, soffice, ricco di materia organica e ben drenato. Se la vogliamo coltivare in vaso, possiamo darle ciò di cui necessita con del terriccio per piante da fiore, arricchito con una manciata di stallatico. Le irrigazioni dovranno essere costanti, soprattutto in estate, e tutte le volte che il terriccio risulterà asciutto. Dobbiamo però evitare ristagni, e quindi svuotare l'acqua in eccesso dal sottovaso dopo circa mezz'oretta dall'apporto idrico. Generalmente la stella egiziana non si pota. Limitiamoci solamente a pulire i fiori passati. Questa operazione stimolerà la pianta sulla produzione di nuovi fiori. Per gli amanti della biodiversità, questa è una pianta da non farsi scappare, assieme a Cufea e Bidens, di cui abbiamo parlato alcune puntate fa, perché la loro fioritura continua attira farfalle, api ed altri insetti utili. Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14%, è stato quotato fra 21,20 e 21,40 euro al quintale, IVA esclusa, l'orzo tra 15,30 e 15,80, non quotati invece soia e frumento. Altalenante l'attività all'ortofrutticolo di Udine, con prezzi diversificati. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero sono quotate da 1 a 1,40 euro al chilo IVA esclusa, le zucchine da 0,80 a 1 euro, i cetrioli da 0,90 a 1,40, i cavoli da 2,50, i pomodori in grappolo da 1,50 a 1,80, il ricchio rosso tondo, quello di Treviso precoce da 2,80 a 3,50, i meloni da 1,30 a 2,80, l'anguria da 0,60 a 1 euro, le pesche noci da 2 a 3,50, le albicocche da 2,20 a 3 euro e le ciliegie da 6,50 a 8,50. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, si evidenzia la presenza di mucillagini e meduse che arrecano danno all'attività. Pertanto il prodotto in generale scarseggia e subisce un leggero aumento di prezzo. La cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 26 a 33 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 12 a 34, le sogliole da 12 a 28, i latterini da 9 a 13, le capesante da 18 a 20, le seppie da 8 a 12, i gamberetti da 23 a 27 e il granchio blu da 2 a 3 euro al chilo. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha recentemente determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia tra 49 e 51,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Ha inoltre quotato il montaggio di 90 giorni tra 8,60 e 8,80 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30. Nell'ambito dei foraggi, per scarsa richiesta di prodotti, i prezzi sono stagnanti. L'erba medica di prima qualità viene quotata tra 10-10,50 euro il quintale IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 6,70 e 7,50. La paglia di cereali pressata si quota fra 6,50 e 8 euro il quintale. Infine, andamento diversificato per gli avicunicoli. Il valore dei poliaterra oscilla tra 1,24 e 1,28 euro il chilo IVA esclusa. Le anatre da 3,05 a 3,15, i tacchini maschi da 1,64 a 1,66 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Le prime due decadi di giugno sono state molto variegate dal punto di vista meteorologico, con fasi fresche e piovose alternate ad altre ben più calde e più asciutte, con i temporali sempre in agguato che hanno già portato in alcune zone della regione le piogge di tutto il mese e altre dove ha piovuto meno. Di rilievo negli ultimi giorni la breve ondata di caldo afoso accompagnata da nuvolosità e da un cielo spesso lattiginoso e giallognolo anche per la polvere arrivata dal deserto del Sahara. Anche in questa terza decade la variabilità proseguirà. Sull'Italia è arrivata un'altra depressione atlantica che esclude la possibilità di un periodo di stabilità. Domani probabilmente avremo cielo variabile con borda moderata sostenuta sulla costa, mentre martedì, con l'attenuazione del vento, saranno di nuovo favoriti i rovesci e i temporali sparsi, specie dal pomeriggio. Anche mercoledì, seppur in modo meno diffuso, avremo ancora qualche temporale. Le temperature rimarranno comunque nella norma del periodo, senza eccessi particolari. Al momento la temperatura media mensile è nella norma, anche se da una settimana all'altra la temperatura è cambiata sensibilmente. Il mare invece rimane sempre più caldo del normale, ma ciò è ormai una costante da molti mesi, per non dire da anni, ed è comune a tutto il Mediterraneo. Per ora l'elemento più anomalo del periodo e di rilievo è stata la fase calda ad alta quota che ha visto temperature eccezionalmente alte oltre i 2000 metri, frutto della spinta dell'anticiclone caldo africano che si è avuta casualmente proprio in corrispondenza del solstizio d'estate. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Juan l'entra il most talue, ovvero a San Giovanni il 24 giugno il mosto entra nell'uva. Coordinamento tecnico di Mauro Ciccarelli, nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Daniele Letti, Germando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.